Io sono Trenti Vittorio, sono nato qua, dietro. Mi ricordo quando è nata questa casa. Dopo è passato un periodo, andavo in prima elementare, passava la domestica dei proprietari di questa casa e passava con una vaschetta con giù la roba pulita, lavata, bagnata però, no? Che la portava da casa sua, la portava qua. E mi ha chiesto, mi dai una mano adesso? Ora siamo arrivati qua e la padrona della casa qua era una maestra e il padrone era un geometra. La maestra andava a Fiesa a fare scuola, a sei scolari, con la vespetta, sempre in prima, mi ricordo che andava. Insomma, arrivavo qua con la biancheria e io non ho mai visto 10 lire, no. Mi ha dato 60 lire. E dopo, quando sono uscito, mi sembravano tutti questi soldi troppi, no? Ho preso una scopa, qua c'era il Nemuler, una pianta che avrà avuto un raggio di 15 metri, 20 metri di raggio, si dice per parte. E questa sgarnera, che dice, la ramazza di legno, ho scopato su tutte le foglie, perché il Nemuler perde foglie tutti i giorni. La maestra mi ha visto. Mi ha chiesto, guarda, puoi venire qua domani a scopare queste foglie sotto, dopo scuola? Sì. E ora tutti dopo scuola venivo qua a scopare nel Nemuler, e dopo ho cominciato a fare il giardino. Man mano che crescevo, cresceva anche il lavoro. All'inizio mi dava 500 lire alla settimana. Dopo piano piano, geometra, padrone, lassù dove c'è il cannevino, faceva il vino. C'era il prodotto. Vendevano il vino qua fuori in cima alla strada, al di là della strada c'era il prodotto. Noi imbottigliavamo qua, si lavava le bottiglie, man mano crescevo, no? Non ero mica sempre da 3 anni, no? Perché a casa ho visto nascere che avevo 1 anno o 2. Quando che ero in cantina avevo già 11 anni, 12. La prima volta che sono andato in campagna mi hanno dato da solferare le viti, no? Io vai tranquillo col soffitto a solferare, no? Noi, la sera avevo gli occhi che erano così, guarda. E chi lo sapeva che se viene il zolfo negli occhi fa male? Non lo sapevo mica io. La curva del castello, lo sapete? E quella campagna lì a sinistra, e sopra, sul colle, c'era il Nosiola, qua giù il Trebbiampo, che faceva il vino santo. Lui va, si sedeva il vino santo, e la portavamo nella casetta della signora là, ad appassire, della Corina. Lì si mettevano tutti i platò, lui va a Trebbiano, e il Nosiola faceva il vino santo. Là facevo la grappa, sull'angolo della casa c'erano sui fiaschi impagliati, quelli di una volta, proprio rotondi con la boccia, vino santo c'era scritto, si fermavano i tedeschi a comprare il vino santo. Dopo ho pagato 1.000 lire per non andare più a scuola, perché morta la mamma che faceva da mangiare ero io. E ora ero obbligato a lavorare qua, no? E a casa facevo da mangiare, magari mettevo sui fagioli, no? E dopo per la voglia di giocare, no? Bruciava la padella con i fagioli. Più di una volta, allora con i miei soldini risparmiati andavo a comprare la padella nuova di nascosto del papà e anche i fagioli e li rimettevo. C'era il fratello del geometra che aveva la campagna, insomma, se ne va a segare l'erba per il cavallo, perché non c'era mica trattore, c'era il cavallo e basta. E la maestra era la comare degli Alpini e ogni tanto facevano la festa sul Nemoler, veniva la banda anche, no? Suonavano quei Alpini, la banda. Aveva il suo lavoro questa casa, ecco, anche appena costruita. Tanto per primo, quando erano le 4, sotto il Nemuler c'era un tavolo di sasso, no? E alle 4 mi portava il panino con la marmellata di prugne che faceva lei. Nell'epoca, diciamo, no? Era la prima donna che portava i pantaloni. All'asilo io non sono andato, perché scappavo dall'asilo. Non era circondato l'asilo, no? C'era campagna da una parte, campagna dall'altra, la strada che scendeva, l'asilo era dove c'è la cassa rurale adesso. Io andavo a scuola, andavo all'asilo, come c'erano i giochi fuori, io sparivo. Allora che mia mamma stava male, che dopo è morta, mio padre mi ha mandato a Cinniga dalla nonna. A Cinniga andavo in campagna, mi piaceva. Con la vacca, non col bue o col cavallo, no, la vacca aveva mio nonno. Il carro andava per conto suo. Sapeva la strada, andava fino a Patone, campagna, dappertutto, noi seduti sul carro. Avevo la capretta, la chiamavo Ninotta, e ci correvo dietro, no? erano i giochi. Giocavo da solo, però ero in compagna, li correvo dietro e lei scappava. Io dopo mi giravo, scappavo io e la capretta mi correva dietro. Ma un bel giorno non trovo più la capretta, vado dal nonno di corso a piangere, no? Dov'è la capretta? Guarda che è andata a casa, la capretta va lì. Io vado a casa, dico, ero vicino dalla compagna, vado a casa, difatti c'era la capretta nella stalla. Quando sono andato via, i Cinigoti, che era Ciniga che abitavo allora, gli hanno detto a mio nonno, c'è più di un nipote, no? È sparito. Eh sì, perché si vede la vacca, fa dischi, più piena di buace. Io sono Rita Santoni, sono da Ceniga nativa, però abito qui a Dro. Adesso quante immondizie fate voi a casa vostra? Un sacco. Una volta non esistevano. Negli anni 50 non c'erano immondizie, come mai? E mangiavano anche allora. Non è che non mangiavano, no, perché tutti mangiavano patate, polenta o fagioli o latte, tutto. Ma non c'era niente di confezionato, era tutto sfuso. Si andava a comprare la carne, ti davano un pezzo di carne che c'era nelle macellerie, te la mettevano in un pezzo di carta. E te la portavi a casa, la carta la bruciavi nel fuoco. Ti davano la conserva, anche quella in un pezzo di carta, la portavi a casa e la usavi. Merendine non ce n'erano, va bene, quelle cose lì non esistevano. L'umido, gli scarti della verdura, di quelle robe lì, qui era un paese rurale e quasi tutti avevano, si chiamava la concimaia, che era sotto casa. Era il cumulo, come adesso lo chiamiamo il cumulo, li mettevano anche il letame delle bestie, perché quasi tutti avevano delle bestie in casa, o conigli, o galline, o il bue, o la mucca. Vivevano di quello che dava la campagna. Qualcuno aveva il lavoro anche in centrale, o perché fabbriche non ce n'erano. Ma la maggior parte erano contadini. E allora la vita era un po' più semplice, però non c'erano mai soldi, perché l'unica entrata che c'era durante l'anno, se avevano un po' di uva, un po' facevano il vino per casa e quella che era in più la vendevano, allora lì prendevano qualcosa, se no avevano il frumento che serviva per fare la farina bianca, avevano il grano che serviva per fare la farina gialla. Avevano tutte le altre robe che servivano per dare da mangiare alle bestie nella stalla. Era tutta una piccola economia che ti permetteva di vivere, insomma. Però se avevi bisogno di un paio di scarpe, come diceva l'Arnaldo, la maggior parte dell'anno andavi scalzo, perché non c'era i soldi da comperarle. Ha appena detto che non c'è niente di confezionato, ma il latte non lo Il prendevate latte arrivava confezionato? Le normalmente mucche? nella stalla Ah, che è un ciù, ok. e andavamo a mungerla. Ma non tutti potevano avere No, e allora si cedeva alla famiglia che non aveva la mucca, veniva con un secchiello a prendere un litro di latte da questa famiglia che ce l'aveva, capisci? E se no c'era il caseificio, c'era anche una volta. Si portava al caseificio e lì al posto dei soldi, che perché magari gli davi, che ne so, 3 litri di latte al giorno, ti davano alla fine della settimana o del mese, ti davano 1 chilo di formaggio o un pezzo di burro. O... Cioè c'era lo scambio merci, non c'era. C'era un baratto proprio, c'era proprio un baratto, sì. Non abbiamo mai sofferto la fame. Perché c'erano sempre le cose di casa da Sì, mangiare. Però campagna. se avevi voglia, che ne so, di mangiare, Capricci lei una ma no, cosa. capricci, no, ma anche una cosa C'era. diversa, non potevi permetterti di comprarla. Se tu ti accontentavi del latte che c'era, del pane che lo facevano in casa, della polenta, dei fagioli, di tutte le verdure che si aveva in casa. No, una volta all'anno facevano anche i biscotti le mamme, le nonne, sempre in casa, con la farina, l'ammoniaca, c'era l'olio perché c'era l'oliva, insomma c'era un po' di tutto in casa. Ma voi ce l'avevate il maiale? Sì, a casa mia, per fortuna, negli anni che eravamo piccole noi, la mia mamma si dava da fare, si teneva un maiale. E allora all'autunno con quello si andava avanti qualche mese a mangiare qualche fetta di mortadella. Ma sai il mio papà come le tagliava? Se tu le guardavi verso la luce, vedevi il sole. Ma ai vostri tempi c'era qualcosa di elettronico? Di elettronico? Il primo giradischi, dunque, avevo 20 anni. Sarà stato negli anni 60? Negli anni... no, dai, 15, forse. Era il primo giradischi. Cosa ascoltava a quel tempo circa? Le canzoni moderne, le canzoni di una volta, non moderne, le canzoni anni 50, anni 50, anni 60. Ce l'ho ancora il giradischi, con la puntina che ogni tanto si rompeva e dopo grattava. Comunque erano belle quelle canzoni. Ce l'ho anche io alcuni di sì, assolutamente. Anche il primo frigorifero in quegli anni lì, che non esisteva, perché una volta che macellavano le bestie in casa non sapevano come conservarle. Per fortuna gli inverni erano freddi e avevano tutta la casa fredda, allora le conservavi, però non è che potevi tenerle più di tanto, allora le mettevano in salamoia col sale per salvare la carne. Sì. Ai vostri tempi nella scuola? Eravate divisi in sezioni o avete soltanto una classe? La mia scuola, una maestra faceva la prima, la seconda e la terza. Sì, che c'era una fila di banchi che erano della prima classe, una fila per la seconda classe e una fila per la terza classe. Allora, intanto che quelli della prima facevano un tema o scrivevano, interrogava quelli della seconda. Quelli della terza li faceva leggere un libro, che ne so, li faceva fare qualcos'altro, perché erano tutti nella stessa classe. E nelle classi c'erano le stufe a ole grandi, che la bidella doveva andare lì alle 5 di mattina a accendere il fuoco, perché altrimenti trovavamo la casa fredda, insomma. La camera era un camerone grande. Dov'è che era la scuola? Nella casa Itea di Ceniga, dove c'è adesso quella casa grande che è casa Itea, lì c'era la scuola. Pensa che a Ceniga, che era il paese più piccolo di Dro, faceva sempre comune uguale, c'erano le prime, seconde, terze, quarte, quinte elementari e poi c'erano le medie sopra. Nel secondo piano c'erano le medie. A Dro, che erano molti di più gli scolari, dovevano venire a Ceniga alle medie, perché non c'erano qui. Ho una domanda, se potete cantarci qualche canzone che si cantava di solito, se ve la ricordate. Sì. Ma una volta le persone cantavano di più, sai, da adesso? Erano molto più, anche le donne, specialmente le casalinghe, che erano quasi tutte casalinghe, quando facevano i lavori di casa o che andavano a lavare al lavatoio, che facevano, le sentivi sempre cantare. Adesso non senti più cantare nessuno, non so perché. Si vede che sono tutti più arrabbiati. Sentivi le canzoni. Il mazzo lì dei fiori, che ne era del quel mazzo lì dei fiori che viene dalla montagna.